Signore, sono Dio. Dio che compi meraviglie, che compi meraviglie. Tu sei forte, tu sei grande, altissimo, onnipotente. Tu, Padre Santo, Re del Cielo, tu, Re della Terra, tu sei Trino e Uno, Signore Dio degli dei. Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, il Signore Dio vivo e vero. Grande, ammirabile Signore, Signore. Misericordioso Salvatore.